e produzione ha vinto il Grammy Award per il miglior disco dance del 2009 e in ottobre del 2011 ha vinto il New Musical Express nominato al numero 132 nella lista delle 150 migliori tracce degli ultimi 15 anni. Ha fatto un po' di lo scelto, Allora dicevo, no, questa canzone di noi, Babbo Reni, questa canzone è stata scritta in Post-it, con la rapida di Dio da Cinque e Dico. Quindi scusate da fermare un'altra volta, perché non sono davanti, quindi ho un po' meno mia. Grazie. Il brano è stato classificato come il numero 260 di Reddit Fiction Rolling Stone nel periodo di Dio. Townshend è generalmente scritto Babbo Reni per il suo progetto Lifehouse, un'opera rock che deve essere il follow-up dell'opera di lui del 1969, Tommy. La canzone è stata rilevata da un modello di Babbo Reni che l'abbiamo ricostruito. Babbo Reni può essere utilizzato nel progetto Lifehouse, per una canzone cantata da Ray, il contadino Sessini che all'inizio dell'Asico raccoglie la moglie di Sammy e i suoi due figli per iniziare il loro esodo verso il mondo. La canzone è stata rilasciata come Babaurei. E adesso andiamo a parlare di Life Forever, che è una canzone della band inglese Oasis, scritta dal chitarrista Noel Gallagher. È stata rilasciata come terzo singolo dell'album di debutto del gruppo, Death Meeting Baby, dell'8 agosto 1994. Noel scrisse la canzone nel 91, quando lavorava per un'impresa costruttrice di altre città, Manchester. L'infortunio ha rimediato la gamba, lo costrinse a un lavoro meno faticoso. Il magazzino gli consentiva di avere più tempo a disposizione per scrivere canzoni. Una sera ascoltava l'album Excite on Main Street, The Rolling Stones. Life Forever poggia solidamente sulle fondamenta classiche di hard rock, una struttura semplice, un po' improntata al ottimismo, in contrasto con l'attitudine grunge in voga nei primi anni 90. Un primo singolo degli Oasis ad entrare nella top 10 del Regno Unito e inoltre la canzone con cui il gruppo iniziò a farsi conoscere nell'ambito del panorama musicale di Italia. Oasis, Life Forever. Yeah. Io ho presentato, non era canzone, la Roma di Barcellona, non cantava la Roma di Barcellona, di Manusano. Vado, mi interrompi sicuro, guarda. No. Allora, la Roma di Barcellona è una canzone scritta da musicista Manusano. Il suo suono è quello della tradizione Roma, anche se il Sicilio e il timbro di voce è molto personale. In particolare la canzone è vera e proprio voglia da dire. Così la tristezza è la vittima di pace. Non c'è bisogno di testi, la canzone parla della città di Barcellona e parla del suo percorso in cosmopolita, un mix di cultura in cui possiamo trovare una tipologia di vita e di più diversi. La canzone cita luoghi tipici della città, la rampa, che è il più antico normale della città ed è anche uno dei più noti al mondo. Sulla rampa, che è attraverso il bosco, trovare quasi tutto il centro della città, vuole significato concentrazione di artisti, di strada, pittori, linee, attori, eccetera. Ospita anche moltissimi negozi che vogliono contemplare la vasta folla di turisti. Così va un po' a quel maggio la bellissima Barcellona. Roma di Barcellona, non lo so. Un singolo di successo, Love Matter. con i venditori Michael Gilboa e Stephen Thomas di Music hanno creato la preparazione per l'album di Gilboa e la Folle di Gatti. Il patrimonio di Gilboa è we'll be right back.

questo era uno giorno, andate yesterday. Volevo ringraziare Valerio che ha appunto che quando si può mettere la sua cuore fino al terminale, che non so dove pensavo di dire. Sì, si alza per la finizione, la mia famiglia è un po' di cose, in particolare, la sua famiglia. La sua famiglia è un Ma non è che la cosa più di una settimana che mi ha detto che Come allora, dice appunto, io ho scelto come collaborazione singolare per il cammetto e il cammetto è di tagliare la linea del tempo, ok? Non perché il frate si è andata bene, allora, dicevamo prima a cercare il primo successo con la carta di singolare in collaborazione con Rob Ballman di Gipito. La canzone è considerata il classico del ballo, però oggi è il stesso di voi sembrati. Con il singolo per Master Time, si rinnova la possibilità della propria popolarità internazionale. Io per la fortunata ho Poi la canzone di Gino del 80 per Master Time ha avuto un grande successo tra le canzoni di Master Time. Almost left behind. Suitcase. meno per con Time After Time. Mi sa che cercava di fare entrare il corato. Scusate, ma sono stati rilassati. Esatto, ma sentite così. Cercava di riprendere e spostando sì, ma non mettere bravi. Però uno ha chiesto di vedere che è di noi, siamo molto più rilassati, molto più veloci tranquilli. Adesso sto? Aggiunto, la mia seconda persona. Certo? Allora, ho scelto che questo mondo ti dà di altri mondo di noi. In questo mondo ti dà, io spero che con altri di altri mondo di noi, di noi, di noi, di noi, pubblicato, lo faccio anche il film. Pubblicato nel settembre del 1988, in meno di 4 mesi è diventato il secondo disco più venduto in Italia. Complessivamente venderà 1,5 milioni di copie. Il ciclo anonimo prende spunto da una sempre quale situazione sociopolitica, economica e tale. In particolar modo, la ottima scelta, perché è un'ottima scelta. Bella, bella. Sì, soprattutto sempre lì. Adesso vi vorrei parlare di temi non orizzanti, che è una canzone cantata dallo scaricatore di porto, dal scaricatore di porto della Georgia in Island. Sì, no, quindi sto di vita, quindi. Questa fu raccolta da Lisa Ternst e pubblicata nel 1942 nel suo libro Great Song of the Georgia Sea Island. Fu cantata da Eugenia Travers nel 1955 nel loro concerto Shallow Be Home, divenne popolare grazie alla versione cantata da The Kingston nel 1958. Ben Jennings propose la versione per bambini suonata durante il concerto della Radio Nightclub di New York nel 1980. Thank you. miei, ma non da una versione di Disney Film. Adesso la mia terza e ultima canzone che anche questa puntata passa. Loro sono i Coldplay con Paradise, quando si dice amici Coldplay appunto, ed è il secondo estratto dal loro tempo album Euro Dopo, che venne pubblicato il 12 settembre del 2011. Ed è stato nei primi sei mesi, nei suoi primi sei mesi, nel 2012 il singolo ha venduto 1.300.000 copie solo negli Stati Uniti. L'ultima copia. I Coldplay con Paradise. E quindi mi sento adesso, ma la prendo ancora. può sfuggire alla noia e alle sensazioni che non si possono. Ashcroft sarà la canzone anche durante il tour di supporto dell'album A Northern Soul. Il brano fu poi inserito in Urban Monk e quindi il suo finito regista Chris Potter avrebbe poi ottenuto la maggior canzone, la migliore canzone di Potter, che si è mai risultato e quella della migliore parte dei fan. Contiene di Ashcroft abbia scomposto la canzone Memoria del padre, appena scomparso e che si è imparato a raccogliere in famiglia. Ashcroft ha detto che è la canzone d'amore. Il posto cambia il concetto con la nuova band versione dell'album. Il verso dei Just Make New Year's, diventa They Just Make New Year's. Perché Ashcroft cerca di mettere in verso il verso dal punto di vista. They Make New Year's, quindi non rende più sicuro. Si riferisce alla medicina ascolta dal padre malato, che è quella di un'unica per un lungo periodo. Un periodo convinto. Ma non ancora una situazione, perché non è andata a tutti. A volte il verso è già sempre. Thank you. l'albergo, con il braccio, con il cuore. E non era solo di tanto, a noi non gli altri, ma non gli altri, ma in soltanto loro, che le possibilità di scappare la sua vita, le cose. Grazie a tutti per aver partecipato e per aver partecipato per studiare la sala con tutti. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Grazie, grazie! Arrivederci! Ciao! Ciao! Adesso salute! Continuiamo la mia ultima canzone. Non ti pare così, ma no, dimmi, no, salute, salute, salute, salute, salute, salute, salute, salute, salute, salute, tu mi fai cantare, la parola, è un singolo contenente due tracce dell'album del 1999, perché sì, l'articolo 31. E già, perché sì, l'articolo 31. Entrambi i brani hanno avuto ottima programmazione radiofonica e un discreto successo commerciale. La parola vede la partecipazione totale di Carmelo Sainz Mendoza, che era anche l'autore del premio di facciamo i saluti, ringraziamo il Giuseppe Trucci, ringraziamo i tecnici, ringraziamo i tutti che hanno fatto e ricordiamo la pagina Facebook, Oltre a Rotterdam, Radio F, Radio Chiama, Alito Paratantio, e il podcast che andremo a mettere domani, bravissimo. E poi il colpo, perché in questa settimana non c'era, però la prossima abbiamo fatto questa parte puntata che si trova nelle nostre canzoni, scelte da noi, perché anche la testa ha fatto delle cose senza compleanni, senza niente, senza scaletta, così tutta la pasta, le persone che ci facevano, ve le abbiamo fatte a tutti. Ma noi facciamo i saluti, ci salutiamo, ci sentiamo molto di prossimo, come sempre, dalle 19 alle 20. Adesso però passa più testimone perché devi lanciare la tua ultima canzone. Allora, questo qui è un blocco che avevo preparato prima di alcuni miei compagni di avventure in occasione della settimana del 1 maggio per ricordare due grandi che almeno non ci sono più, ovvero Ayrton Senna e Lucio Dalla. Il 1 maggio del 1994 la curva fa giro del circuito di Ferrari identico ai vari vive la scorsaia la vita di Ayrton Senna da Silva. Il giorno prima la morte era andata incontro a un fino ad allora semi sconosciuto pilota austriaco, Roland Ratzenberger. Si scoprì successivamente che il pilota brasiliano aveva portato con sé all'interno dell'abitacolo della propria vettura proprio una bandiera austriaca. Ayrton l'avrebbe gettolata durante il giro d'onore in caso di vittoria. Lui, anche quel giorno, voleva vincere. Lucio Dalla si è lasciato poco più di un anno fa, il 1 marzo del 2012, tre giorni prima del suo 69esimo compleanno. Ancora in tour, ancora con la vivacità di un ragazzino che da sempre lo accompagnava. Forse molti di voi non colgono il nostro tra i due, probabilmente perché non conoscono la canzone del grande Lucio, ovvero Ayrton. In realtà è stato scritto ed arrangiato da un attore di teatro, Paolo Montevecchi, e solo successivamente interpretato da Dalla e inserito nell'album Canzoni nel 1996. Ma non posso solo una canzone accomunare le persone. Per quanto i due facessero parte di due mondi diametralmente opposti, erano indubbiamente attraversati dalla stessa passione per quello che faceva, per certi versi anche dalla stessa creatività, dalle stesse intense emozioni e non ultimo dalla volontà di aiutare qualcuno che era stato più sfortunato di loro o non aveva avuto le stesse opportunità. Se ci fosse concesso di rifarci alla domanda di Adriano Occidentale in un suo noto programma televisivo, beh, diremo che Ayrton e Lucio erano certamente rock. Con questo nostalgico ricordo vi salutiamo e Carlo Rotterdam torna come sempre mercoledì prossimo. Cosa è rimasto di Ayrton Senna, ciascuno lo sa per conto proprio. Il suo casco che passa e va, un gesto del braccio, della mano, un segno sull'asfalto, il timbro della sua voce. È rimasta comunque un'intensità, perché intenso fu sempre, al punto da morire così, davanti a tutti, mentre eravamo convinti, da lui soprattutto, che fosse bravo, dotato, perfetto al punto da sembrare invulnerabile. Era un ragazzo esposto, attraversato dai sentimenti e dal talento che dentro di lui, per qualche magia, rimbalzavano, tornavano, restituiti tra di noi, sino all'ultimo, sino ad una fine, anche quella pubblica e per questo dolorosamente indimenticabile. È stato un ragazzo fortunato, anche se raramente felice, come se le sue ricchezze lo obbligassero ad un compito, a restituire pure lì, in continuazione, qualcosa di prezioso, come se avesse a che fare con un dovere, un'espiazione. Per questo forse ostentava un furore che nessuna vittoria, nessun record riuscivano ad estinguere, avrebbero estinto mai. Ostentava un conto aperto con se stesso, anche se sembrava addebitato agli altri, a chi voleva batterlo, a chi ostacolava un proponimento, una sete segreta. Avevano una coda di ombra visibile come la scia di una cometa, contenevano un'unicità formidabile ed offrivano un compendio di tenerezza alla violenza della corsa, del rumore, della velocità. Poi, per qualche via, anche quella imprevista, Ayrton ce la faceva, abbandonava la sua guerra, respirava, e te lo trovavi all'improvviso lì, in una tregua che ancora adesso fa venire voglia di parlare, di chiamarlo, tenerlo vicino, sotto un pergolato, avere una birra piccola, una limonata, recuperando un tempo prezioso e perduto. Ayrton Senna è morto 1 maggio 1994, aveva 34 anni. Con la malinconia che ci accompagna, con l'orgoglio che fu suo e che è rimasto nostro, lo ricordiamo ora. Siamo in una terra, in Emilia, dove la benzina è come l'oro. Nuvolari, Maserati, Ferrari, lo dico sempre, Ducati, corridori. Ma Nuvolari è sempre stato qualcosa che non si è più ripetuto, forse si è ripetuto in un altro modo. Senna, ecco l'altro uomo che ha colpito ancora prima che i giornali l'anima di chi lo vedeva correre e di chi lo conosceva. Io l'ho conosciuto a Ayrton, era veramente un uomo diverso, fuori da tutte le categorie. Pensate che era un mistico. In corsa, in pista, era un animale, una belva, non aveva pure di niente. Il diavolo sembrava uno svizzero al confronto di Ayrton. Ma la cosa stupenda, che fuori dalla corsa era completamente diversa. Era un uomo delle stelle, un uomo del cielo, un uomo di una bontà assoluta. Pensate che non si sapeva, mentre ancora era vivo, che lui manteneva almeno dai 20 ai 30 bambini di strada in Brasile, in una fondazione che non ha mai pubblicizzato. E non era ricco, era uno dei pochi corridori arrivati con le vittorie, non col denaro del padre. Poi chiaramente, essendo il più grande di tutti, ha avuto anche il denaro, ma l'ha speso subito e quasi sempre per mantenere chi non l'aveva. Io ero a Imola quando Ayrton morì e rimasi colpito, poi andai all'ospedale, conoscevo l'anestesista che lo curava. Ma dopo pochi giorni venne uno che non aveva mai scritto una canzone, un attore di teatro molto bravo, di Branciroli, e mi fece ascoltare questa canzone così per sapere che cosa ne pensavo, ed era cantata in italiano da lui e anche in brasiliano. La cosa incredibile è che lui non poteva sapere le cose che io sapevo di Ayrton, e quando andai in Brasile per altri concerti, conoscendo bene la sorella e la madre, feci a sentire loro la canzone in brasiliano e si misero a piangere, perché era esattamente il linguaggio che molte volte Ayrton usava per raccontarsi. E quando la canto, pensate alla faccia di Ayrton, chi la ricorda, e soprattutto pensate che il vero mistero dell'uomo è la vita, anche dopo morto. La morte sì, è la fine del primo tempo, ma quando muore un grande come Ayrton, è veramente solo la fine del primo tempo, poi ne comincia un altro che non ha più fine. Il secondo tempo è l'eternità. Faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che ti pagano per continuare. Per continuare poi che cosa? Per sponsorizzare poi che cosa? E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, a capire che ero stato un po' confuso. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Devo fare qualcosa. Dovevo cambiare, cambiare qualche cosa. E ho deciso una notte di maggio, in una terra di sognatori, ho deciso che toccava proprio a me. E ho capito che Dio mi aveva dato il potere di far tornare indietro il mondo, rimbalzando, rimbalzando nella curva insieme a me. Mi ha detto, chiudi gli occhi e riposa. E io ho chiuso gli occhi. Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se forse non è servito a niente, tanto il circo cambierà città. Hai detto, chiudi gli occhi e riposa. E ho chiuso gli occhi.